Nagyon viszont kássa. Viszem a szacsa. Mindjárt jön a tisztán. Thank you.

Meglio così mi va di stare I want to let him. You may have a few seconds. Questa tasca è andato. Ah, no, è in due. Questa è una vostra robot, grazie a tutti. Come la faccio? Ciao. Ciao.

Thank you.